giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. La musica non è solo stimolo cerebrale. La musica ha la capacità di entrare nel fondo di noi. Può parlare alle nostre cellule e con una parte di noi che non conosciamo. E quando gli armonici si combinano in modo naturale, l'equilibrio delle loro attrazioni è pacifico e ci dà benessere. Musica armonico naturale, io la definisco così. Peppe Vessicchio. Musica armonico naturale è senz'altro quella di Mozart che stiamo sentendo. Fa bene a noi e a quanto pare fa bene agli animali e alle piante. Bentrovati al Giardino Segreto. In questa domenica che ci vede reduci dal Festival di Sanremo, come non parlare dell'effetto che le note sembrano avere sulle piante e anche sull'agricoltura? Esperimenti, studi a riguardo sono in corso nel mondo, ma nel nostro paese ad interessarsene tra gli altri è il direttore d'orchestra più amato d'Italia, Peppe Vessicchio, che abbiamo visto tornare sul palco dell'Ariston in quella che è stata la sua 25esima edizione di Sanremo. Dunque ha festeggiato le nozze d'argento con il Festival, che senza Vessicchio, bisogna dirlo, i social ne hanno parlato, non è la stessa cosa. Quello che non tutti sanno è che Peppe Vessicchio, oltre che della musica, è innamorato della natura a tal punto che sta provando a far coincidere i due mondi. Sentiamo un altro stralcio tratto dal suo libro Rizzoli dal titolo La musica fa crescere i pomodori. Individuai un'opera di Mozart tra le meno note e provammo con quella. Nell'arco di una ventina di giorni il risultato pareva incredibile ai miei stessi occhi. La serra era diventata uno spettacolo di colori, di vita pulsante, di profumi ancestrali. Le piante sembravano sorridere. Erano stati i principi della musica di Mozart a funzionare. Il suo sesto senso, l'equilibrio, la combinazione tra alcune frequenze in cui convivono e si sviluppano melodia, ritmo, armonia. Un certo tipo di sollecitazione dell'aria. La capacità di stare in pace con la conformazione molecolare funziona sulla coltivazione dei pomodori, funziona sul terreno. Peppe Vessicchio è con noi al Giardino Segreto, per una volta non per parlare dei successi nuovi e vecchi al Festival di Sanremo, della sua carriera musicale, ma delle ricerche a cui si sta interessando ormai da qualche anno, quelle cioè relative agli effetti che le frequenze musicali possono avere su piante e coltivazioni. Ma come mai questo passaggio? Come l'è venuto, maestro Vessicchio? Ma guardi, in realtà ho pensato che le piante fossero dei testimoni più autentici del valore della musica di quanto non possono essere gli umani, perché gli umani hanno un cervello, hanno una cultura per cui sono portati a discriminare a volte in partenza i codici dei linguaggi, mentre la natura no, la natura che ci circonda risponde con grande semplicità. Non so se ricorda le vacche del Visconti che facevano più latte con un tipo di musica piuttosto che con un altro, se non sbaglio Mozart e le Zeppelin, no? E quando scoprirono che facevano più latte con la musica di Mozart, quando nelle stalle c'era la musica di Mozart, gli universitari, l'unica cosa che si può dire è che era la musica classica rispetto alla musica pop o moderna o rock. E la cosa che non mi quadrava era che le mucche non possono essere classiste da scegliere un tipo di musica, un tipo di linguaggio. Sicuramente reagivano ad un fenomeno fisico, perché il suono è l'effetto delle molecole dell'aria che vanno in movimento, e noi lo percepiamo con le nostre membrane uditive, ma non solo con le nostre membrane uditive, ma probabilmente con migliaia di sensori che ci appartengono. E allora ho detto, forse le piante possono testimoniare molto più correttamente di quanto un uomo possa fare la bontà di una complessità musicale, quindi la bontà, e quando dico bontà intendo la capacità di essere in armonia con tutto quello che ci circonda, di una polifonia. E lì pian piano sono venuto a scoprire una serie di cose bellissime, e da che erano i testimoni per queste piante sono diventate invece delle personalità che sono andato a poi a studiare successivamente, perché il mondo vegetale è un mondo straordinario, la loro è un'intelligenza integrata. Noi siamo fatti per organi, divisi per organi, mentre loro hanno l'intelligenza in tutte le loro parti. Una pianta la puoi dividere, ricresce, un uomo se lo dividi non ricresce. Quindi questa cosa mi ha colpito e mi ha indotto ad osservare il mondo delle piante con maggiore attenzione. Meno male che a parlare è il maestro Beppe Vessicchio, perché quando si parla di piante e musica c'è molto scetticismo. Sembra che si parli di cose magiche. Dico una cosa, io per un po' di tempo ho vissuto il timore, no? Davanti coloro che parlano solamente per quello che è stato già accertato e visto nel passato o che sanno. Ultimamente c'è stata una ricerca sulla Arabidopsis thaliana, questa è il nome latino di questa specie, è una specie di verza. Questa pianta emette un polifenolo, quindi si rende sgradevole, ecco, per chi arriva il bruco e se la mangia. Quando arriva il bruco, la pianta emette il polifenolo. Gli studiosi americani cosa hanno fatto? Hanno registrato il suono del bruco che mangia quella foglia, lo hanno inserito in un'altra serie di suoni, diciamo sono dei fattori confondenti, e hanno messo il fremire di alcuni insetti, il fruscio delle foglie, insomma altri suoni che appartengono alla natura. E poi in uno studio attrezzato, dove queste piante erano sane e tranquille, hanno messo delle casse acustiche e hanno mandato il suono, il chomp chomp, chiamiamolo così, di questo bruco. Le piante hanno emesso il polifenolo, quindi vuol dire che l'unica cosa che ha potuto generare questo è stata la loro capacità di ascoltare. Non hanno le orecchie, non sono fatte come noi, ma sentono le vibrazioni nell'aria e le decodificano per la loro difesa. Questa non la sapevo, questa non c'era nel suo libro La musica fa crescere i pomodori. Il libro perché lo so, perché pian piano anch'io ho continuato a studiare. È tutta un'evoluzione, perché c'è solo da scoprire, solo da scoprire. Infatti nessuno inventa nulla qui bisogna solo scoprire quello che esiste. Le dico una cosa che ho scoperto di recente, ed è un'altra ricerca fatta in campo medico su una popolazione di dati di milioni di cartelle cliniche. Allora, hanno selezionato in vari ospedali del mondo le cartelle cliniche di un reparto specifico, che è quello della traumatologia ortopedica, che si sa che è uno dei più dolorosi, e hanno fatto un'indagine per vedere, a parità di patologia, il quantitativo di antidolorifici somministrati. Bene, questa ricerca ha dimostrato che le stanze di ospedale dove c'era una finestra dalla quale il paziente poteva osservare il verde della natura, il quantitativo di antidolorifici era ridotto del 50%. Sì, devo dire che questo, cioè, ne abbiamo parlato più volte proprio dell'effetto terapeutico che hanno le piante su di noi, non soltanto negli ospedali ma anche a scuola, i ragazzi studiano meglio. Guardate, si rende conto che anche guardare il verde è una forma di riconnessione automatica, perché quello che ci fa male è l'isolamento, quello che ci uccide è la solitudine. E la paura, questo ci rende patologici. Coloro che hanno fatto meno uso di antidolorifici, forse hanno fatto il giusto uso di antidolorifici, sono gli altri che sono dovuti ricorrere ad un uso maggiore proprio perché avevano perso la loro relazione con quello che ci circonda. E quello che ci circonda, siccome sulla crosta terrestre, quindi il 97% è vegetale, è il mondo vegetale. Cioè noi dobbiamo veramente tener conto di questo grande valore. E poi, evviva la medicina moderna, diciamo, che ci porta i farmaci, sono sempre principi attivi che hanno però carpito attraverso l'uso millenario che si è fatto delle piante medicinali. Io credo che noi abbiamo intorno una quantità di riserve e di rimedi, come se tutto quello che ci circonda è qui per aiutarci. Ecco, sicuramente le piante non possono che farci che bene. La cosa che è davvero intrigante è che nel suo caso, Peppe Vessicchio, lei sta facendo bene alle piante tramite la musica, cioè si è scelto una platea gigantesca, come ha detto, sono la stragrande maggioranza degli esseri viventi, quindi ci ha visto lungo da questo punto di vista. Ma quando lei dice che alle piante fa bene la musica, lei fa riferimento ha un particolare tipo di musica, la chiama armonico naturale, ma ne parliamo tra un attimo al Giardino Segreto, restate lì. Il Giardino Segreto. Guarda quelle mucche e ricorda che i più grandi scienziati del mondo non hanno mai scoperto come trasformare l'erba in latte. Mihailo Pupin. Bentornati, è partito da lì per i suoi studi con musiche e piante il maestro Pepe Vessicchio, dalle mucche del Wisconsin, quelle che in presenza di musica di Mozart hanno cominciato a produrre più latte, meno invece ascoltando un gruppo come i Led Zeppelin. Dunque viene da chiedersi, ci sono note più terapeutiche di altre? Vale a dire, maestro Vessicchio, quella che lei definisce musica armonico-naturale? Eravamo rimasti a questo. Sì, diciamo la musica armonico-naturale è quella che dà maggiori risultati, però devo dire una cosa, nelle varie sperimentazioni, perché anche col professor Manzo del laboratorio di neurobiologia delle piante dell'Università di Firenze. Lo conosciamo bene. Anche se l'abbiamo fatto una sola volta è stata una piacevole sorpresa, abbiamo fatto un piccolo esperimento su dei semi, quindi ancora prima che germogli proprio il seme. Abbiamo fatto gli esperimenti su dei semi, la stessa qualità di semi, li abbiamo separati e li abbiamo messi a vibrare su vari tipi di musica e ovviamente una parte li abbiamo lasciati senza musica. Allora, le dico che messi poi in incubatrice a parità abbiamo visto che quelli che avevano avuto sollecitazione musicale, per quello che la musica contiene e noi non siamo ancora in grado di decifrare, i semi che erano stati vibrati con la musica hanno prodotto una germogliazione più rapida. Non le sto a fare la classifica dei vari tipi di generi di musica, però questo significa che la musica in generale già aiuta. Poi è chiaro che possiamo addirittura, potremmo identificare una musica terapeutica già solo da ascoltare o da far percepire il nostro corpo attraverso un lettino d'acqua, attraverso altri sistemi. Quindi la musica si sta rivelando uno strumento, un linguaggio di benessere. Lo sappiamo che lo è stato e lo è per tanti di noi, perché basta affezionarsi ad una canzone che ti sorregge anche nei momenti difficili. No, ma per gli umani è normale, basti pensare al sempiterno successo di Sanremo. Noi amiamo la musica. Sì, sì, ma gli uomini hanno bisogno di fare musica, non c'è popolo che non ha. No, infatti. Quello che ci sorprende è che in qualche modo anche le piante, quando lei dice alle piante la musica fa bene. Che loro ovviamente non hanno discriminanze come noi. Loro riescono a percepire quello che è stato un tentativo di creazione, secondo me, affettiva da parte nostra. Ma rispondono, affettivamente le piante rispondono, questo lo sappiamo. Ci sono piante che muoiono con i loro padroni. È vero, capita. Con chi le ha accudite. Cioè, quindi non, è vero, non abbiamo la testimonianza scientifica di tutto questo, ma non abbiamo anche la testimonianza scientifica di un sacco di cose che utilizziamo e che non sappiamo neanche come funzionano. No, però lo facciamo lo stesso. La scienza ci deve aiutare a capire che cosa accade, non ci deve impedire di osservare i fenomeni. La musica applicata alle piante, lei l'ha usata in casa sua, notando che le piante... Ho cominciato in casa mia, sì, ho cominciato in casa mia. Con le sue piantine in vaso, immagino. Sì, con delle piantine grasse che, voglio dire, mostravano variazioni di colore a seconda della musica che utilizzavo. Sono stati i primi testimoni a darmi un indizio e poi a portare. Ma l'hanno convinta perché poi ha continuato, quindi vuol dire che già da quell'esperimento in casa lei ha avuto. Sì, siamo passati alle serre di pomodori, siamo passati anche ad altre sperimentazioni. Ci sono dei laboratori importanti che stanno lavorando per cercare di rispondere alle modifiche che si sono verificate su alcuni elementi come il latte, come il vino, perché le variazioni sono tangibili, anche alcune sono strumentali, però è difficile per le scienze, la scienza che abbiamo oggi, comprendere e tracciare i micromovimenti che generano tutto questo, il perché. È chiaro che ci vuole un interesse filantropico per portare avanti queste cose. Io ce la sto mettendo tutta e fortunatamente ho trovato sulla mia strada anche dei ricercatori internazionali che si stanno adoperando per cercare di capire di più di questo fenomeno. Pensiamo allo stesso Stefano Mancuso, che ormai sta divulgando veramente in tutto il mondo. Però senta, noi la stiamo ascoltando con attenzione. Mettessimo Mozart in casa nostra. Perché so che lei afferma che Mozart è la perfezione dell'armonia. È quello che dà maggiori risultati, parliamo in questi termini. Poi io da musicista posso dire che sicuramente è un fenomeno sovrannaturale quasi dal punto di vista musicale. La musica di Mozart? Sì, sì, la musica di Mozart fa benissimo. Io dico scherzando, dico che è una farmacia sonora. Siamo, ma com'è possibile? Perché? Perché risponde a dei concetti di fisica. Perché noi pensiamo sempre che il suono lo possiamo dominare in qualunque modo, indirizzarlo. Il suono risponde anche alle sue esigenze all'interno di uno spazio. Il modo in cui due note si incontrano tra loro può essere un modo pacifico o può essere anche un modo conflittuale. E secondo me, se è conflittuale, genera nell'aria una forma di tensione che i nostri sensori avvisano. Mozart aveva la capacità di evolvere, di divertirci forse anche dal punto di vista intellettuale e sentimentale, ma allo stesso tempo senza mai tradire la fisica del suono, e questo permette alle nostre cellule, al nostro sistema di poterlo percepire con gioia e con piacere e secondo me con benessere, ecco, approfittando come un raggio di sole o dell'acqua pura. Alle nostre cellule e anche quelle delle piante, evidentemente anche ovviamente, quelle degli animali. Ancora di più, perché loro, come dicevo, non hanno filtri che bloccano tutto questo. Poi la lascio andare, però lei mi deve dire come hanno reagito i pomodori in serra dopo la musica. Guardi, hanno reagito in questo modo. Possiamo essere scettici sulla qualità organolettica, cioè più buono, più dolce o meno, rispetto alla stessa pianta a 20 metri di distanza o 50 in un'altra serra che non aveva il trattamento musicale. Ma è accaduta una cosa molto importante, che dico senza tema di smentita, che la pianta a fine produzione ancora era carica di pomodori ed era sana, eppure estirpandola, quindi tirandola via dal suolo, le radici mostravano un quantitativo di nematodi, che sono dei parassiti, dei vermetti tondi, tale che la pianta sarebbe dovuta perire già da tempo. E c'era un via vai di agronomi che venivano a vedere questo fenomeno, che la pianta stava bene in superficie, nella parte aerea, e invece sotto era attaccata. Quindi il sistema immunitario di quella pianta aveva subito un rafforzamento tale da poter reggere quell'attacco di parassiti. Questo è una cosa molto interessante, perché è successo solo a quelle piante e solo in quella serra. Quali sono i suoi progetti futuri in questa direzione? O cosa sta combinando? Beh, io sto lavorando su una cosa interessante, che è la maglia glutinica. Quindi la maglia glutinica significa la maglia della pasta che noi cuociamo tutti i giorni. Abbiamo fatto degli esperimenti con pubblico, con giornalisti, ho fatto vedere come la stessa identica pasta che metto a vibrare su musica armonica naturale, identica, quindi allo stesso pacco di pasta, nel momento in cui la mettiamo in acqua in due bollitori paralleli alla stessa temperatura senza sale, faccio vedere come una perde l'amido subito, quella non trattata dalla musica, e l'altra invece resta per qualche minuto in più con la maglia chiusa, il che significa che trattiene l'amido all'interno, cosa che poi per i nutrizionisti è una cosa molto buona, perché l'amido poi evita che picchi glicemici quando mangiamo la pasta, in un certo senso come se la pasta fosse più dietetica di quell'altra, ecco, diventasse questo solo grazie a questo tipo di sperimentazione. Quindi dal vino, perché anche su quello abbiamo applicato la musica. Pasta, pomodori, vino. Sull'olio stiamo lavorando, perché in effetti queste materie sono materie vive e quindi hanno una loro organizzazione armonica, sono suscettibili di una riorganizzazione laddove probabilmente il segnale riesce a passare e a fornire questa nuova condizione. Si parla di questo e altro nel suo libro, che ormai è un paio d'anni, Peppe Vessicchio, La musica fa crescere i pomodori. Si parla di questo, ma anche molto del suo lavoro, della musica, dell'orchestra, dei personaggi che ha incontrato, di Sanremo, insomma della sua vita e così via. Prima di lasciarla andare, un consiglio. Cosa facciamo noi cittadini con le nostre piante in casa sul balcone quando torniamo a casa? La musica, magari di Mozart, la lasciamo per quanto tempo? Ma secondo me anche 20 minuti sono sufficienti. Davvero? Sì. Di giorno, anche 20 minuti sono sufficienti. Fate la prova. 20 minuti al giorno? 20 minuti al giorno, certo. Allora noi ci proviamo. Cosa dobbiamo aspettarci? Guardate la vigoria della pianta, osservatela. Chi ha le piante le conosce, le proprie piante, sa come si comportano. Si dovrebbe vedere, in 3-4 giorni si dovrebbero vedere subito le variazioni. Ma lei ormai ha un giardino, immagino. Io c'ho una campagna. Ah, è intera, una campagna intera, beato. Ho una Peppe. Una campagna con gli odini. Grazie infinite a Peppe Vessicchio per essere stato al Giardino Segreto. Grazie, grazie a voi. Mozart è in assoluto il compositore più grande. Beethoven creava la sua musica, ma la musica di Mozart è di tale purezza e bellezza che sembra semplicemente trovata, esistita da sempre come parte dell'intima armonia dell'universo, in attesa di essere portata alla luce. Albert Einstein. A proposito di piante e suoni, a quanto afferma la scienza in questo caso, i vegetali sono in grado di emetterli. Ricercatori dell'Università di Tel Aviv hanno di recente dimostrato e pubblicato che le piante, loro hanno fatto esperimenti su pomodoro e tabacco, emettono dei suoni nelle frequenze degli ultrasuoni, che oggi sono perfettamente misurabili in laboratorio. Lo fanno, dice la ricerca, quando sono sottoposte a stress, per esempio per mancanza d'acqua o per un attacco di parassiti. Probabilmente, dicono gli scienziati, questi suoni ultrasonici sono prodotti mediante fenomeni di cavitazione, cioè vibrazioni causate dalla rottura di bolle di liquido o di pareti cellulari. Potrebbero equivalere questi suoni a richieste di aiuto o a segnali di avvertimento per mettere in atto reazioni ad un attacco oppure a una carenza come quella dell'acqua. Secondo Yitzhak Kait, uno dei ricercatori, gli esseri viventi potrebbero utilizzare i suoni emessi da una pianta, captandoli anche a metri di distanza, per conoscere le loro condizioni. Un'ulteriore conferma della capacità delle frequenze armoniche di trasmettere informazioni. Torneremo su questo affascinante tema. Ringrazio ancora il maestro Peppe Vessicchio, la star dell'Orchestra di Sanremo, per essere stato con noi e aver portato la musica tra le piante del Giardino Segreto, che torna domenica prossima alle 15.30. www.radio24.it per ascoltare in podcast. Grazie a Roberta Frisani, che ha curato la regia. A voi per l'ascolto. Una buona settimana green da Roberta Pellegatta.